ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Buongiorno, un mondo possibile in cui fare sport. Questo è il tema che affrontiamo in questa puntata. Parliamo proprio di sport, di competizione, non di quella ginnastica che a volte facciamo al mattino per allungarci un po' tipo gatto perché ci fa male il collo. No, parliamo proprio di sport, di competizione, di battere il record, dei sacrifici che si fanno per battere il record. E perché lo facciamo? Siamo partiti come umani dalla caccia al bisonte, siamo arrivati al lancio del giavellotto alle Olimpiadi, sempre con la voglia di primeggiare. Ma se prima c'era un motivo concreto per farlo, se non cacci non mangi, adesso c'è la voglia di battere il record, di battere quello che qualcun altro ha già fatto prima di noi, di superarlo, di vincere. Che senso dà questa vittoria? L'824 0024 è il numero che potete fare per contattarci, come sempre 349 238 6666. Lo sport è stato uno strumento politico, lo sappiamo benissimo, c'è la tregua olimpica, c'è lo sport di questi giorni, sempre più difficile da fare, specialmente con i più piccoli, parleremo anche di questo. E allora magari come si può ovviare a questa situazione o che riflessioni vogliamo fare su questa situazione? Cominciamo subito con il nostro primo ospite, il primo ospite che ha una carriera tutta fatta nel mondo dello sport, ma anche una vita che spende in bicicletta. Lui è Giovanni Bruno, buongiorno. Buongiorno, grazie della vita spesa in bicicletta. Beh, perché sappiamo che ti abbiamo colto, direttore, su questo, no, sulla filo di partenza con gli amici per la biciclettata della domenica, che però è anche agonismo e competitiva quella, no? Assolutamente sì, cioè si parte tutti tranquilli, poi dovete sapere il ciclista è bugiardo, no? Perché ogni volta uno si incontra e dice quanto hai pedalato? No, ho fatto pochissimo, poi invece sono allenatissimi tutti, questa è la realtà. Però insomma adesso ci troveremo tra poco sui Navigli e ci faremo una passeggiata veloce, diciamo così, verso Pavia, nel Pavese, quindi insomma anche molto bella, molto, oggi è una giornata meravigliosa, quindi fa bene. E poi fa bene, detto francamente. Anche io, quel senso lì di... è una cosa fondamentale. Sì, però cioè, un conto è muoversi, come diceva appunto, davanti allo specchio facendo quelle cose che il fisioterapista ti raccomanda per non incriccarti, e un conto invece inforcare la bici e fare dei chilometri oppure correre, oppure certo. No, ognuno ha le sue declinazioni, le sue passioni. Sky Sport, insomma, alla fine esiste sulla passione che c'è per lo sport, la voglia di sport che c'è in giro. Assolutamente sì, ma è cambiato tutto, cioè, dicevi giustamente il concetto, prima si cercava lo sport per arrivare al mangiare, no? Perché non dimentichiamo che lo sport nasce sì come tregua olimpica e l'esibizione di un corpo perfetto, almeno si cercava nell'antica Grecia, ma anche il concetto militare, perché lo sport è una derivazione militare. Le prime medaglie, le prime assegnazioni erano tutte quante concetti militari, vedi la scherma e vedi il tiro, l'equitazione, cioè cose di questo genere che hanno, diciamo, hanno cominciato così le medaglie olimpiche. Ora è un concetto di enorme tecnologia, il lockdown ci ha fatto scoprire i rulli o l'attività ginnica in casa, ma nello stesso tempo c'è un concetto di abbigliamento migliorato, leggero, tecnico, bello, esteticamente, anche con dei colori accattivanti, che può essere il fluo, il verde, l'arancione, cioè colori che sì, sono anche utili nel farti vedere, vedi, nel senso ciclistico da una macchina. Cosa ma anche, fondamentale, perché abbiamo visto cosa succede. E poi dobbiamo tempo. Considerare la sicurezza, che è un'altra cosa incredibile dal punto di vista ciclistico soprattutto, però è anche la tecnologia, cioè il mezzo, la bicicletta in questo caso, che non è certamente economico, anche se tanti adesso vanno in bicicletta per la questione del bonus ed è un piacere vedere tante persone che cercano di trovare la ciclabile per entrare in città o stare in città, anche se dovrebbero migliorare un po' le strade. Però è la tecnologia applicata a un computerino che uno si mette a guardare, è il cardiofrequenzimetro che lo fa uno quando corre, anche quindi uno un po' corre anche con se stesso, non è solo in competizione con gli altri, ma questi strumenti di cui dicevi, insomma, ci danno la possibilità di batterci continuamente. Verissimo, verissimo, perché tu prima devi superare te stesso, poi arrivare agli altri limiti. Questo di te stesso è, passami il termine, lo sportivo della domenica, che può essere super competitivo o non competitivo. Però è una valutazione che tu dai, un'asticella che ipotizza quella invece del campione. Il campione deve superare quell'asticella, no? Pensiamo soltanto al salto in alto o al salto con l'asta, che sale di un centimetro quella maledetta asticella per superare un limite, oppure quella dei centesimi per un centometrista, o per sia che sia atletica o che sia nuoto, o un piattello per colui che spara la spilla al piattello in più. Ecco, quell'obiettivo è dettato dal concetto dello sportivo domenicale, riferito a un computerino. Devo battere me stesso, un ciclista deve arrivare, della domenica parliamo, devo arrivare su quella montagna dove sono arrivati i campioni, ce l'ho fatta pure io, poi dopo io mi fermo e mi faccio una bellissima una carbonara. Polpanina con la porchetta, sì, certo. Anche, bravissimo, perfetto, mentre il ciclista vero magari prende, come si dice in gergo, un ciuccino e riparte alla stragrande. Però sono sempre di più quelli che vogliono imitare anche in questo il ciclista. C'è anche tutto un business che gira sull'alimentazione degli sportivi amatoriali, non di quelli professionisti. Assolutamente sì, perché ci sentiamo tutti quanti dei professionisti una volta che siamo vestiti da campioni. Vestiti, attenzione. Perché chiaramente c'è un concetto dell'imitazione, no? Perché se io guardo tanta televisione, lo dicevi prima, che ci sono migliaia di canali che trasmettono sport, e di conseguenza io sono invogliato nell'atto sportivo, anche nel comprare quello che viene pubblicizzato, che mi funziona e che magari ne trovo anche beneficio, perché tendo anche, tra virgolette, a togliermi qualcosina di peso e a mangiare una barretta in più rispetto a quello che fa un campione. Però la realtà è questa, cioè se uno pensa al concetto dell'imitazione, faccio un esempio per tutti: se vi ricordate le notti di luna rossa, che tutti quanti il giorno dopo parlavano di vela come è un po' così l'Italia in generale. Noi siamo dei falsi, dei bugiardi che ci divertiamo da matti a una tazzina di caffè al bar e spariamo tante di quelle fesserie, però che sono fantastiche. Cioè, tutti sapevano delle vele in carbonio, tutti sapevano del famoso bonpresso del Moro di Venezia. Dice, ma come, non hai visto il bonpresso? Io lo so, io lo metto sulla barca, certo. Come no? Però c'è da dire una cosa, che io lo dico qui da mamma, da moglie, ma in generale posso dirlo semplicemente da persona che sta con qualcuno che è appassionato di sport, o meglio di fare sport, che non si deve fare il fai da te. È vero che ci sono le barrette, ma le barrette magari prese concordando con un medico o con un esperto, ecco, vanno meglio, non buttiamoci così a caso nella lagone riempiendoci di chissà che cosa. E l'altro aspetto, anche perché, permettimi, così chiudiamo il discorso nutrizionale, anche perché per i bambini soprattutto le barrette non vanno bene, cioè va bene molto di più quel famoso panino rispetto a una barretta, cioè perché c'è un tipo di alimentazione completamente diversa tra quello del bambino che fa sport, che può essere ginnastica artistica, scherma o corsa, rispetto a un adulto che sa come dosare quel tipo di barretta o gel o altre cose. Ecco, insomma, questo è importantissimo, ci vuole sempre dietro qualcuno che ti spiega qualcosa. Io mi ricordo, abitavo a Savona quando ero bambina e a un certo punto passava la Milano-Sanremo, ovviamente, e tutti in strada a vedere questa Milano-Sanremo. I ciclisti in quel punto lì avevano un punto di ristoro, o almeno un po' prima di casa mia avevano il punto di ristoro, e poi arrivavano dove eravamo noi e tiravano la borsa con gli avanzi di quello che avevano consumato, e mi arrivò un panino con dentro una banana. Me lo ricordo sempre, cioè, ma come fa uno che va in bici a ingurgitare un panino con dentro la banana? Questo era un tempo, il rifornimento che veniva dato. È vero, io devo dire, è complicatissimo, perché tra la fatica, piegarsi sulla bicicletta e mangiare una banana e mandarla giù non è una cosa facile, è molto meglio in questo meglio momento la barretta. Diciamo, la barretta oppure il gel oppure l'acqua, diciamo, con dentro delle situazioni, diciamo, nutritive, o recupero dei sali, cose di questo genere. No, però ovviamente è il fascino del pane al salame che si diceva, per esempio, e che rimane nella biciclettata l'eroica che viene fatta in Toscana, dove uno bellissimo. Si ferma, si prende un bel bicchiere di vino e c'è anche tanto da affettati da mangiare, ci mette 7 ore per fare 50 chilometri con una bicicletta d'epoca e chi se ne frega da quel punto di vista, certo. Lì, perché il concetto dello stare in compagnia, che è un'altra situazione magnifica, diciamo, dello sport, che tende ad aggregare ed è estremamente importante, specie il sabato e la domenica, o soprattutto quando siamo stati isolati, che anche tramite un computer guardavamo gli altri che facevano dell'attività e cercavamo di competere con gli altri che facevano attività in casa. Senti, ti devo dire però una cosa che a me indispettisce un po' delle cronache, soprattutto del calcio degli ultimi anni, questa trasformazione dell'atleta in un gladiatore nell'arena, che compie gesta eroiche, ma in fondo è un atleta adesso, non è che sia diverso. Anche da... molto ben pagato. Molto ben pagato, chiaramente è lì, però è proprio quella, direi, hai toccato l'aspetto economico, è lì la differenza, insomma, perché non è che questa persona può essere elevata a nostro modello di vita, anzi forse è sbagliato dare quel tipo di modello, perché qualcuno si può illudere di arrivare lì, fare gli stessi soldi e spreca una vita dietro a qualcosa di irraggiungibile. Allora, sì e no. Allora, sì, perché è vero, portare all'eccesso è sempre sbagliato, e soprattutto idolatrare determinate persone, poi magari è sbagliato soprattutto il modello. No, perché poi fondamentalmente a noi ci piace, cioè da sempre abbiamo pensato di studiare quel tipo di fenomeno, poi noi dobbiamo raccontare. Cioè, noi abbiamo un grandissimo compito, secondo me, a livello televisivo come a livello della carta stampata, è cercare di raccontare il più possibile, cercare di far innamorare qualcuno sì di un personaggio ma anche della disciplina, e sapere che dietro questa disciplina e dietro questo personaggio lui è arrivato perché ha fatto dei sacrifici. Ma questo è lo stesso di chi studia, di chi lavora, no? Che c'è dietro un sacrificio. E questo è da inculcare ai ragazzi, per cui io quando, non so, cerchiamo di raccontare le storie, io soprattutto sono molto legato a Bebe Vio, perché l'ho avuta come tu, sono stato il suo tutor quando lei ha lavorato come stagista in grafica a Sky Sport, quindi lei costruiva le sigle all'interno della nostra struttura grafica, quindi ho vissuto moltissimo la sua realtà e la realtà della sua famiglia e le sue difficoltà e le difficoltà della sua famiglia. Ecco, saper raccontare che dietro una ragazzina che ha subito quello che ha subito Bebe e che ha avuto quello che ha avuto Bebe e che sta facendo dei risultati straordinari Bebe, dietro ci sono stati dei sacrifici di famiglia e dei sacrifici personali suoi incredibili. Allora lì c'è, passami il termine, l'esaltazione per un qualcuno, dell'eroe. Per un racconto dell'eroe. Sono d'accordissimo con te su determinate cronache urlate per portare all'eccesso con dei paroloni non studiati, ma questo è in tutti gli sport, non solo nel calcio, è la costruzione di una frase quando invece deve essere una situazione assolutamente sì, spontanea. Ci sono situazioni normali a volte e non tutte sono eccezionali, alla fine non distinguiamo più l'eccezionale dal normale. Il termine straordinario deve essere usato pochissimo. Esattamente. Perché è il concetto stesso dello straordinario, se tu lo usi sempre non è più straordinario ma è comune. Grazie Giovanni, davvero. Ma buona giornata, voi, buona piacere. Pedalata, piacere sicuro. Per noi. Certamente, grazie. Giovanni Bruno è stato con noi Sky Sport. Piccola pausa, a tra pochissimo parliamo di sport amatoriali. Si può fare. Si può fare. fare. C'era una volta un campetto di periferia, coi pali corrosi dal sole, ma io mi sentivo come a casa mia. Addosso la maglia di Alex, tu invece c'hai quella di Sheva. Dai cazzo, ma chi se ne frega? Per noi era come una preghiera, lo capisce soltanto chi c'era. Li chiamano gli anni della formazione, noi pensavamo solo a quale formazione. Paolo sulla fascia vaporetto, corsa al centro, io in mezzo, tra i quali avevamo Pagliuca, Vincenzo, Renato era mancino come re, Coba, Raffaele bomba Napoli, Maradona, pure meglio della tipa, meglio della droga, lo capisce chi lo prova. Non avevamo pubblico, no, eppure a noi ci sembrava San Siro. E no, non ero l'unico, no, ma tanti li ho persi finiti nel giro. A diventare grandi ci vuole coraggio, capire se tirare o se fare un passaggio. Ed eccoci qua, dicevamo, parliamo adesso di sport, soprattutto per ragazzi, ed è in collegamento con noi Vincenzo Manco, che è il presidente WISP, cioè l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Lo sport, soprattutto per i giovani, prosegue con grandissime difficoltà. Ho visto un vostro appello alle istituzioni, mi pare inascoltato in gran parte, purtroppo. No, guardi, le dico, anzi, noi abbiamo fatto questo appello per sensibilizzare le istituzioni, appunto l'opinione pubblica, perché la scorsa settimana eravamo sinceramente preoccupati che non fosse garantita la dignità dello sport di base, e abbiamo voluto promuoverlo perché insomma la rassegna stampa che ascoltavamo in quei giorni era preoccupante, cioè con un rischio di forte chiusura, visto che WISP, così come anche altri enti di promozione sportiva, si erano impegnati a far rispettare, quindi con gli investimenti dovuti, i protocolli rigidi affinché le attività potessero essere garantite, quindi garantita la sicurezza dei praticanti e la salute appunto di tutti. Il DPCM invece del 13 di ottobre accoglie sostanzialmente questo. Noi eravamo preoccupati che venisse riconosciuta solo la possibilità per le federazioni sportive, per alcuni diciamo organismi sportivi, mentre sono state inserite anche le attività organizzate dagli enti di promozione sportiva per i cosiddetti sport di contatto, e questo onestamente ci ha soddisfatto, quindi riconosciamo il lavoro e l'impegno del ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, il governo e anche le forze diciamo parlamentari di maggioranza che hanno ascoltato il nostro appello e hanno permesso questo. Certo, noi rispondiamo con la nostra rigida anche responsabilità, con il nostro forte senso civico, ecco, facendo rispettare i protocolli e permettendo la pratica sportiva per tutti e anche allo sport di base. Sì, perché c'è ovviamente un aspetto formativo proprio di questa attività, che è anche imparare le regole, imparare, no, a rispettare gli altri, motivi per i quali lo sport non è solo sport e competizione, cioè faccio una gara con qualcuno, ma imparo a stare al mondo. Lo sport è soprattutto rispetto delle regole, è soprattutto fattore educativo. Spesso e volentieri noi della WISP ricordiamo all'opinione pubblica, nei dibattiti ai quali partecipiamo, in occasioni come queste che ci state offrendo voi, che lo sport è poi di fatto la terza agenzia educativa del paese, dopo la scuola, dopo l'università e la famiglia. E quindi come però tale, questo periodo siete stati un po' meno convocati, almeno non parlo appunto di professionisti, parlo di giovani, di ragazzi, di chi fa sport, ecco, siete stati un po' meno convocati, mi pare, al di là di tutto, di scuola abbiamo sentito parlare, ha sprombattuto continuamente, di università leggermente meno, ma l'abbiamo legate al capitolo scuola, di giovani e sport, insomma è sempre stato un capitolo un po' messo dopo. Sì, guardi, su questo le dico francamente che fin dall'inizio… Non è che la voglio portare in polemica, era una riflessione. No, assolutamente. Guardi, le dico, no, glielo dico molto francamente, nessuna polemica, anzi anche su questo noi abbiamo una nostra posizione, siamo espressi quando si è appunto parlato, soprattutto tra la fine dell'estate, settembre, appunto del rischio da parte delle scuole di utilizzare le palestre per mettere appunto la didattica e per garantire la didattica. Noi abbiamo detto come WISP che non partecipavamo sicuramente ad un'eventuale competizione tra i diritti. Per noi non esiste il diritto allo studio da una parte e il diritto allo sport dall'altra, esistono i diritti, certo, esiste appunto la nostra responsabilità di organizzazione sociale che ha rapporti costanti con le istituzioni sia a livello locale che a livello regionale, soprattutto a livello nazionale, e cercavamo comunque di fare la nostra parte, cioè di un'organizzazione di sport, di promozione sociale che ascolta, interagisce con le istituzioni, ma che chiaramente afferma il diritto alla pratica sportiva per tutte e per tutti, soprattutto appunto per i giovani, per i ragazzi, perché ripetiamo, è un grande fattore educativo, non soltanto, è anche un grande fattore coesivo, un grande fattore inclusivo. In questa grande pandemia, purtroppo, stiamo sostanzialmente pagando anche questo. Viviamo una contraddizione, se vogliamo, rispetto al valore complessivo della pratica sportiva. Tradotto, se lo sport è salute, viviamo l'enorme paradosso del rapporto col distanziamento sociale, perché questo è, diciamo, elemento di applicazione, ecco, del valore della pratica sportiva, rischiamo di non viverlo per il distanziamento sociale, come dire, una misura legittima nel rapporto purtroppo con la curva dei contagi che sta risalendo. Però ecco, no ad una competizione tra diritti, noi facciamo la nostra parte e sì, spesso e volentieri in questo paese la cultura sportiva è considerata, diciamo, una cultura non al pari degli altri, ma noi, insomma, i nostri... Beh, chiaro che voi la... dimostrarlo. Infatti è vero, in questo paese si parla tanto di sport, ma si parla e si pratica un po' meno. Questo lo si vede nei numeri quando andiamo a vedere le statistiche sui giovani e lo sport, l'obesità, la nutrizione, le condizioni di salute. Siamo un po' chiacchieroni, un po' troppo chiacchieroni per avere poi, tra l'altro, un paese così adatto a fare lo sport per clima, per condizioni in generale anche delle nostre città. Insomma, non stiamo parlando di luoghi né disastrati né in cui sia impossibile fare qualcosa. Siamo, come si è sempre detto, un paese di 62 milioni di allenatori che spesso e volentieri amano leggere lo sport piuttosto che praticarlo. Purtroppo è vero, come diceva lei prima, noi siamo maglia nera rispetto alla percentuale di sedentarietà nel rapporto con l'Europa. Abbiamo circa 23-24 milioni di sedentari nel nostro paese. Stiamo guardando su questo con grande attenzione a ciò che sta accadendo rispetto all'iter legislativo sul testo unico che dovrebbe riordinare il sistema sportivo. Il sistema sportivo è necessario che venga riordinato nel nostro paese proprio, ecco, per evitare che tutte le volte che c'è un dibattito sullo sport si faccia magari un dibattito sulla contrapposizione tra lo sport professionistico, lo sport di alto livello e lo sport di base e lo sport sociale. C'è in tutto questo una complementarietà, quel testo unico che noi stiamo guardando con grande favore e con grande interesse, ecco, finalmente tenta di stabilire quelli che sono gli ambiti di riferimento dello sport di alto livello, dello sport professionistico, che non deve stare in contrapposizione con lo sport di base, sono semplicemente funzioni diverse, e quel testo unico sta cercando di stabilire il chi fa che cosa. In pratica quello che è il ruolo vero dello sport sociale è il riconoscimento di esso all'interno finalmente del nostro ordinamento giuridico. La ringrazio, la devo salutare, però ci ha dato alcune informazioni importanti e anche una speranza, diciamo, futura. Vincenzo Manco, presidente WISP, buon lavoro. Abbiamo GR24, torniamo subito dopo, ancora parliamo di sport e ci raggiunge Marco Malvaldi. Si può fare. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Si può fare. Si può fare. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. E ancora una buona giornata da Laura Bettini e una buona giornata a te, Marco Malvaldi. Buona giornata Laura, salve a tutti. Come stai? Tutto bene. Oggi fatto la ginnastica del mattino? Assolutamente, assolutamente, ho cambiato i calzini e le mutande, quindi sono, è un'attività fisica sufficiente, come diceva Ring Lardner. Ma come hai smesso col ping pong? Sappiamo dei tuoi trascorsi sul ping pong, adesso non mi puoi essere passato da quello al calzino. No, è che il ping pong in questo momento, ahimè, è uno di quegli sport che è difficile praticare perché la pallina viene toccata con le mani e quindi te la tieni davanti al viso e quindi ci sono i droplet e quindi è bene per ora non praticare ping pong. In questo momento sono tornato al mio, diciamo, al mio primo amore. I miei più grandi successi sportivi sono stati ottenuti davanti a un televisore, quindi oggi c'è il campionato e diciamo... Ti rimetti in pista. Allora io devo leggere un paio di messaggi, uno dei quali in particolare ricorda che purtroppo l'educazione fisica nelle scuole è prevalentemente teorica e in palestra poi bisogna stare distanziati, le attività ludiche, e un po' si riferisce al dramma solito delle scuole italiane dove fare l'educazione fisica è sempre stato un po' difficile. Adesso va meglio, io ricordo di aver avuto palestre che non erano assolutamente palestre avendo fatto scuole sempre in edifici storici. Non so com'è andata a te, Marco, in passato. Ma io la mia educazione fisica a scuola è stata un qualcosa di molto teorico. Mi veniva consegnato un pallone e mi veniva detto di andare a giocare in una palestra che non era appunto una palestra, era più che altro uno scantinato. Però questo è un peccato perché, come diceva prima Manco, c'è un qualcosa che non si capisce del valore educativo dello sport e vorrei qui provare a spiegarlo con un piccolo aneddoto. Nel 1964 a Innsbruck, alle Olimpiadi, partecipava un signore che si chiamava Eugenio Monti, che era un grandissimo bobbista che non aveva però mai vinto l'oro olimpico. E si presenta alla partenza, l'ultima occasione per vincere l'oro, e si rende conto che gli inglesi, l'equipaggio più temibile, hanno perso un bullone e sono un passo dal ritiro. All'epoca non c'era l'assistenza tecnica che c'è oggi e perdere un bullone nel bob significa mettere a rischio la propria vita perché le vibrazioni non ti permettono più di controllare il mezzo. Monti si rende conto che il suo bob e quello degli inglesi sono dello stesso modello, della stessa marca e stesso modello, e quindi presta lui il bullone agli inglesi. Si stringono la mano al grido di vinca il migliore e vincono gli inglesi. Fin qui è una bellissima storia di fair play, ma la cosa più bella è quello che Monti dice dopo nelle interviste, perché il giornalista gli dice: lei ha perso perché ha prestato un bullone agli inglesi, e Monti dice: no, io ho perso perché gli inglesi sono andati più veloci. E lui sapeva giocare. Lui sapeva giocare, ma soprattutto sapeva che lo sport ti allena all'obiettività, a riconoscere il risultato. Cioè, noi oggi viviamo in un mondo in cui un presidente degli Stati Uniti dice che non sa se riconoscerà il risultato delle elezioni. Viviamo in un mondo in cui riconoscere l'obiettività, riconoscere che 3 maggiore di 2 è sempre più difficile. Ecco, lo sport ti abitua a questa cosa qui, ti abitua a riconoscere che quell'altro ha vinto non perché c'è stato un complotto, perché di qui o perché di là, ma perché è più forte. E questo ti aiuta a crescere. Se lo riconosci, puoi dire: ok, allora come ha fatto lui a vincere, voglio fare come lui. È lo spirito di emulazione positivo. All'inizio noi abbiamo parlato di spirito di emulazione tout court, quando vedi, no, il gladiatore nell'arena e allora ti butti così senza criterio. E invece lo spirito di emulazione sano è questo: dire come ha fatto, ci provo anch'io, mi alleno, riconosco di essere stato sconfitto e così via. È lì la parte costruttiva dello sport. Esattamente, è un riscontro. Del resto l'essere umano cresce con il riscontro, no? Com'è che impariamo a camminare? Non è che, appunto, da un punto di vista teorico la mamma ti tiene le mani e ti dice: adesso tesoro, contrai il gastrocnemio e il soleo, sposta il tuo centro di massa di 10 centimetri in avanti. No, impariamo a camminare a sederate. Prova, errore, mi rendo conto di dove ho sbagliato e ricomincio. Lo sport ti permette di farlo in un ambiente simulato, sicuro, con regole, con arbitri. Non è che la vita non ti permette spesso di avere un arbitro degli ambienti simulati, ecco, è un pochino più cattivella da questo punto di vista. Invece nell'ambito sportivo puoi imparare in maniera sicura. Ecco, questo valore non è assolutamente riconosciuto e credo che sia alla base di alcuni dei problemi che abbiamo oggi. E poi c'è la questione che affrontiamo tra pochissimo di quando uno sportivo, specialmente un agonista, lascia le gare e si ritrova un po' a fare i conti con se stesso o trova un ostacolo sul suo percorso. E non parlo di ostacoli, non parlo dei 3.000 siepi, chiaramente. Ne parliamo tra pochissimo. Vi ricordo 824-0024 per le vostre avventure sportive o per le vostre riflessioni, 349-238 6666 per messaggi, SMS e WhatsApp. Viabilità, a tra poco. Si può fare. Si può fare. For a long time, daddy wakes up to a drink at night, disappearing all night. I don't wanna know where he's been like. I know what I wanna do, wanna run away with you. Gonna grab clothes, socks in the morning, go. È stata una bravissima interprete dei 100 metri ostacoli, poi dopo ha cambiato, ha iniziato a praticare ciclismo su pista nella specialità dell'inseguimento. Questo fu a causa di un infortunio, ha vinto alle Olimpiadi di Atlanta, poi ha vinto ancora un'altra medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Sydney, poi si è ritirata dal ciclismo, è arrivata al bob, insomma ha fatto veramente di tutto. Antonella Bellutti, buongiorno. Buongiorno. La musica, Antonella, ti ha mai così accompagnato, sostenuto, oppure sei di quelli che preferiscono un po' no? Concentrarsi senza sentire nulla? No, assolutamente, tanta musica. Poi ho i miei momenti di meditazione e concentrazione nel silenzio assoluto, però la musica è sempre stata una compagna di grande motivazione e energia durante tutta la carriera e anche dopo. La tua carriera è stata una carriera, ovviamente abbiamo detto vari sport, ma sempre a livello agonistico. Poi quando hai smesso, al di là di qualunque vicissitudine che adesso non abbiamo voglia di affrontare, tanto è tutto superato, tutta roba vecchia e anche che è stata, no? Diciamo da buttare via, ecco, quel periodo lì, però poi dopo rifarsi una vita, com'è? Ma io ovviamente parlo per me, anche se poi il mio impegno per la doppia carriera e per il reinserimento degli atleti della vita, e non uso a caso questo termine, mi ha fatto conoscere un po' questo problema e questo fenomeno a livello generale. Allora, è sicuramente difficile per delle caratteristiche che lo sport agonistico ha, e che tendono a essere ignorate, ovvero il fatto che lo sport sia sempre più iperspecializzante, sempre più esclusivo e sempre più precoce. Questo vuol dire che inizi molto presto a fare un'attività che è incompatibile con tante altre cose, fondamentalmente anche con la formazione, con le relazioni. E questo soprattutto se sei un atleta bravo che raggiunge altri livelli, vuol dire che per un periodo importantissimo della sua vita non fai nient'altro, diciamo che prevalentemente non fai altro, e questo vuol dire che nel momento in cui finisci, poi dopo lo smarrimento è grande. Ecco, Antonella Bellutti, una cosa, lei Diciamo, lei ha parlato di iperspecializzazione e lei questa cosa la sa bene perché ha passato molti sport e al suo sport principe è arrivata in un modo, se non sbaglio, rocambolesco, perché c'è un bellissimo aneddoto su come lei ha scoperto il ciclismo. Lei fondamentalmente ha sorpassato due persone, due ciclisti esperti che non riuscivano a riprenderla. Ha voglia di raccontarci questo aneddoto, perché io lo trovo meraviglioso e molto significativo. Sì, effettivamente il mio incontro con la bicicletta è uno degli episodi che definisco di serendipità, cioè l'incontrare qualcosa di inaspettato mentre stai cercando qualcos'altro, perché avevo questo infortunio al ginocchio che mi stava condizionando la carriera nell'atletica e che dopo 2 anni di calvario mi ha portato a dire ok, basta, adesso prendo le distanze, faccio altro. Con degli amici ho iniziato a uscire in bici, anche perché era un modo per sia riabilitarmi nel fisico, ma forse probabilmente più nell'animo, vista la grande depressione in cui ero finita. E un giorno, anzi forse uno dei primi giorni in cui ho iniziato con questi amici, abbiamo superato 2 di quelli che poi ho scoperto essere i responsabili dell'attività del ciclismo in regione, che mi hanno riconosciuta come quella che faceva atletica, e quindi poi, non riuscendo ad raggiungermi, mi hanno cercata, mi hanno telefonato e mi hanno chiesto di provare, e da lì è iniziata questa carriera che in maniera molto veloce mi ha portato poi al primo successo olimpico. Però poi c'è un oggi, e l'oggi è fatto di una... di un bed and breakfast vegano, forse il primo in Italia, Locanda Itinerande, aperto con la sua compagna. Quindi è tutta un'altra vita o è una vita simile? Perché comunque anche lì c'è dell'agonismo nel tenere aperto un bed and breakfast, aprire, chiudere, clienti, mica clienti, non parliamo anche del periodo storico. Sì, beh, hai toccato dei punti effettivamente importanti, nel senso che sicuramente è stato un cambiamento che io desideravo dopo una vita molto intensa, vissuta da atleta, ma altrettanto intensamente vissuta poi nel post-agonismo in vari ruoli che ho ricoperto all'interno del mondo sportivo. Poi però per delusioni e incompatibilità, incomprensioni varie, questo impegno all'interno del mondo sportivo è andato via via scemando, e a un certo punto ho avuto voglia di fermarmi e rielaborare tutto, perché poi viviamo in un periodo in cui si tende sempre a così, con la frenesia, a passare sopra le cose senza fermarsi a valutarne il significato. Quindi, in coincidenza con la mancanza di mio padre e l'avere ereditato questa vecchia casa dei miei bisnonni che era già locanda, è partito questo progetto, e effettivamente, come hai detto tu, è stata un po' una sintesi di tante cose che hanno fatto parte della mia vita e che adesso si sono trasformate in una sorta di messaggio che noi diamo ai nostri ospiti, e che quindi possono vivere qui un'esperienza di turismo sano e attivo, e anche così il nostro stile di vita orientato al veganesimo e quindi a tutto ciò che esso comporta nella poi quotidianità. Tu hai anche scritto, ecco, di questo, prego, prego Marco. Una cosa, perché appunto Antonella Bellutti ha scritto di questo, e c'è un aspetto che mi colpisce, perché una persona che, bene o male, lei da sportiva agonista avrà vissuto negli alberghi e diciamo avrà cambiato un albergo per notte per un lungo periodo della sua vita, e adesso gestisce un albergo. È anche un modo per rimettere nel proprio futuro quello che si è preso nel passato, perché lei avrà visto alberghi di ogni tipo, dalla Stamberga all'ultralusso probabilmente. Ma ti ringrazio per averlo definito un albergo, in realtà è una piccolissima affitta camere con 4 camere, quindi è proprio una cosa minima. Diciamo che quando è al completo con i nostri ospiti formiamo una sorta di grande famiglia, quindi è una cosa molto intima, dove gli ospiti vengono il più possibile coccolati, e in cui il nostro cambiamento cerca di diventare così, attraverso l'ospitalità, il cibo, l'esperienza a contatto con la natura, un'esperienza che poi ognuno porta e rielabora nella propria vita. E però, come dicevo prima, appunto, sicuramente l'aver fatto una vita un po' apolide, un po' così da zingara in giro per il mondo, mi ha fatto sentire la necessità a un certo punto di mettere le radici e quindi di mettere un punto fermo nella mia vita, e questo è sicuramente forse il valore più importante di questa scelta. Poi c'è dentro un po' di tutto, perché sicuramente l'aver vissuto molto in alberghi mi dà anche la direzione verso cui l'ospitalità voglio che sia improntata, cioè il fatto di far sentire gli ospiti a casa in un ambiente in cui sono assolutamente a proprio agio. Sai cosa però noto nel leggere di te e di Viviana, Viviana Maffei, che è appunto la tua compagna, che continuate a fare però questi 4.000. Quindi questa parte agonistica c'è ancora in voi, questo desiderio di superare, lei sci alpinista, free rider, tu con tutte le tue biciclette, 100 metri, bob e così via. In ogni modo nella vostra vita rimane questa componente di competizione, di voglia di superarsi, oppure quando lo fate con tranquillità o con la voglia di competere? Ma sicuramente la montagna per me è stata una terapia, perché è stato il modo attraverso cui sono riuscita a superare quel vuoto che è poco tanto una vita così intensa come quella di essere un atleta ad alto livello ti lascia, e poi mi ha permesso di così conoscere quegli sport che io non potevo praticare, perché appunto per le motivazioni dette prima, l'agonismo un po' ormai è iperspecializzante, quindi ti lascia poco spazio ad altro, e quindi soddisfa quegli aspetti che per me sono importanti nella vita, come la sfida, la fatica, il sentirsi sempre attivi in forma, che fa stare bene a prescindere dal bisogno poi di produrre una performance, e in più c'è questo contatto con la natura che trovo molto gratificante, che soprattutto forse in questo periodo di pandemia dovrebbe essere messo al primo posto nelle priorità che necessariamente ormai questo problema ci costringe a riordinare, quindi a in qualche modo a far sì che nelle persone di tutti ci sia la possibilità di riscoprire il contatto con il nostro pianeta, il nostro ambiente. Marco? Laura? Sì, scusami, Antonella Belluti, un'ultima domanda. Lei con molta eleganza prima ha sorvolato sul, diciamo, sull'aver lasciato la sua attività. Lei è stata CT del ciclismo su pista, ricordiamolo, perché è un caso particolare in Italia di tutto il ciclismo su pista, anche di quello maschile. Non trova che sia una cosa un po' curiosa che questo succeda ancora oggi così di rado? Cioè, capita spesso che un commissario tecnico maschio alleni una squadra femminile, ma il contrario è veramente difficile. Non è un po' curioso nel 2020 assistere a questa cosa? Questa è una domanda trabocchetto, nel senso che bisognerebbe dedicare una puntata intera all'argomento. E, sì, più che curioso è un po' triste. Assurdo. Perché ormai sappiamo che le donne rappresentano una parte fondamentale di quelli che sono i risultati importanti che il nostro paese raggiunge, e il movimento femminile è stato dirompente negli ultimi anni a livello internazionale, a livello nazionale, e però continuano le donne a non contare, cioè vincono ma non contano, per usare un titolo di un bel articolo uscito anni fa. E quindi è triste che a livello dirigenziale non siamo rappresentate, che non ci sia mai stata una presidente di federazione donna, ovviamente nemmeno del CONI, e questo secondo me è grave nella misura in cui poi, come dicevi prima, anche nei quadri tecnici non sono presenti figure femminili, nemmeno nelle squadre femminili e nemmeno negli sport dove la maggioranza dei praticanti è donna, ad esempio la pallavolo. E più questo problema è grave per il fatto che la visione che si ha dello sport continua a essere quella maschilista, patriarcale, di un mondo che è sempre stato a prevalenza maschile, che se andiamo proprio alle sue origini moderne, ricordiamoci che De Coubertin, quando diceva che l'importante non è vincere ma partecipare, lo diceva solo agli uomini, perché lui era estremamente contrario al fatto che le donne praticassero. E quindi la storia dello sport femminile è una storia moderna, e i risultati che le donne ottengono, a mio avviso, proprio per questa breve storia agonistica, sono già eccezionali. Ricordiamoci che in alcune discipline le donne sono allo stesso livello, se non addirittura meglio degli uomini, ad esempio nell'arrampicata. E quindi è un mondo in cui c'è bisogno di, certo, c'è bisogno di pazienza, però insomma diciamo che ogni tanto si esaurisce ogni tanto la pazienza, c'è bisogno di dirlo c'è bisogno di dirlo e di sottolinearlo. Io le porto anche i complimenti di un ascoltatore, in particolare Cesare, che dice che bella persona sta parlando, e noi concordiamo grazie Antonella. Allora, buon lavoro, buon proseguimento con le vostre attività di montagna, ma anche con le vostre attività sportive e con tutto quello che riguarda il movimento dello sport e delle donne nello sport. A tra pochissimo torniamo parlando di atletica. Si può fare. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Si può fare. Solo la sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione campanina. Solo la sana e consapevole libidine salva il giovane dallo sport e dall'azione campanina. Mi piacerebbe fare quello che non si può, ma non dovresti sempre sì, perché per me la sposa è una rosa. Antonio Latorre, CT della FIDAL, Federatletica, ma anche professore associato alla Università degli Studi di Milano. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Abbiamo sentito, no, solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress, ma mi dicono che dice anche dallo sport, io non me lo ricordavo. Sì. Cosa ne pensa? Lo dice anche dallo sport. Dallo sport, a suo tempo l'avrà un po' detestata questa cosa, immagino. Sì, beh, lui è uno dei miei cantanti preferiti, l'ho visto anche tante volte in concerto e trovo che sia una canzone molto allegra. Però proprio bisognerebbe in questi tempi rovesciare il testo, usare le sue parole, quindi nonostante il periodo c'è bisogno di far muovere le persone, soprattutto i nostri ragazzi, perché questa è una delle cose che speravo avessimo imparato dal primo periodo del Covid. E invece è andata un po' all'incontrario. Sì, perché noi abbiamo pubblicato due studi scientifici dove abbiamo indagato sia durante il periodo più duro e soprattutto abbiamo fatto uno studio post per vedere le conseguenze immediate sulla vita delle persone durante il periodo Covid. Erano aumentati il consumo di farmaci, per dormire, stati d'ansia. Adesso stavamo spostando, diciamo, la nostra attenzione sulla popolazione giovane, e io credo che sia proprio un errore, pur rispettando e comprendendo la delicatezza della situazione, pur rispettando e comprendendo la difficoltà di prendere decisioni che in qualche modo possano limitare la diffusione del virus. Però ormai c'è davvero sono esplosi gli studi sul Covid, e a parte quelli che stanno indagando gli aspetti genetici per capire come questo virus, perché questo virus ad alcune persone fa danni devastanti fino a togliere la vita ed altri li lascia, diciamo, quasi immuni seppur portatori. E tra le cose che sono emerse costantemente, detto anche dai più grandi ricercatori in tutte le parti del mondo, è che l'attività fisica va continuata perché è un potenziatore del sistema immunitario. Fare attività motoria vuol dire andare contro il Covid. Quindi oggi di nuovo non aver la mia tristezza è che non si è imparato nulla dal primo periodo. Non è vero che si esce migliori se poi non si impara da queste lezioni. Quindi farei questo appello con razionalità, consapevolezza a chi sta prendendo queste difficilissime decisioni, che non sono semplici. Certo, se volete evitare dei contraccolpi futuri su tutti su altri fronti, agiamo forse con più cautela nei confronti dello sport. Esattamente, guardi, c'è proprio un esempio eclatante. Purtroppo tra i più colpiti da questa pandemia sono le persone, ma quindi anche i ragazzi obesi, perché accidenti, c'è sostanzialmente uno speciale veicolo adesso, senza stare a fare discorsi scientifici troppo complicati che alle 9:30 della mattina annoierebbero chi ci ascolta, però purtroppo nelle persone obese questo virus trova un'autostrada. Uno dei modi per contrastare questa velocità di diffusione del virus è proprio che anche le persone in sovrappeso possano muoversi. Ecco, se le si lascia ulteriormente imprigionate in casa, immobili, si spalanca la porta al virus. Ecco, chiedo proprio di ragionare e di discutere insieme quali siano le contromisure più efficaci da un punto di vista motorio, fatto nel rispetto delle regole, se si cammina indossando la mascherina, eccetera, ma penso soprattutto ai ragazzi che già hanno una situazione che rischia di essere intermittente nell'esperienza scolastica, e deprivarli ulteriormente di questa possibilità di movimento vuol dire davvero prepariamoci a danni futuri importanti. Penso anche a chi, Marco, quando voi intervieni, pensavo buongiorno a quelli che si sono allenati con un obiettivo, non parlo dei grandi professionisti che hanno continuato, ma dei ragazzi che magari puntavano a campionati regionali, campionati nazionali, anche per loro vedere sfumare questo obiettivo deve essere pesante. È tristissimo per un atleta che investe la propria vita, perché cercare di partecipare a un'Olimpiade vuol dire fare dello sport il proprio mestiere, così ogni ragazzo, ogni ragazza che ha questo sogno di andare alle Olimpiadi ha i suoi traguardi. Levargli queste possibilità è davvero deprivargli di qualcosa che non è solo prestazione, misura, performance, è anche emozione, è anche crescita, è anche maturazione e apprendimento. E quindi esatto, credo che dovremmo proprio ragionare tutti. Ecco, Antonio, una cosa ti volevo chiedere. Questo tu hai avuto a che fare chiaramente anche con atleti che nel corso, diciamo, molto vicini alle loro prestazioni si sono infortunati e quindi hanno dovuto in qualche modo smettere di allenarsi, o meglio, magari allenarsi in modo diverso. Ci sono delle analogie? Cioè, si possono, secondo te, trovare dei modi diversi di allenarsi e di fare sport da soli? È una cosa piuttosto innaturale, ma penso all'allenamento delle capacità respiratorie, per esempio, o ad altri. Ci sono cose a cui noi non pensiamo e che invece potremmo fare? Noi abbiamo cercato di fare lungo tutto il periodo del Covid, quello che delle restrizioni progressive che ha portato nel mese di maggio a bloccare anche, diciamo, i nostri atleti di punta, di provare a inventarci qualcosa di diverso, di non rassegnarci al lockdown della pandemia, ma un lockdown anche mentale. Abbiamo inventato una piattaforma Atletica Viva che è accessibile a tutti. Se andate sul sito www.fidal.it potete accedere, e abbiamo fatto produrre ai nostri atleti oltre 120 tutorial per far vedere che cosa in casa si può fare. E quindi l'aspetto respiratorio che citavi, peraltro, è estremamente importante, perché quello che di questa pandemia si è discusso poco è che chi ce l'ha fatta purtroppo ha dei danni, spero non siano permanenti, ancora non si sa, ma dei danni dal punto di vista della limitazione della capacità respiratoria in primis, per cui a maggior ragione è importante provare a lavorare sugli aspetti respiratori. Mi viene in mente quanto importanza sta assumendo in questo momento una disciplina antichissima, lo yoga, e proprio in prossimità di Bergamo ci sono dei percorsi di riabilitazione che si basano e si fondano su queste conoscenze. E quindi torniamo al fatto che stavamo dicendo all'inizio: per potercela fare è necessario che il corpo stia in movimento. Un corpo immobile è un altro dei bersagli preferiti di questo virus, del quale dobbiamo capire ancora tante cose. Ecco, perché fra l'altro tu giustamente abbiamo parlato di atleti e di persone comuni, però continuiamo a dirlo, cioè molto spesso in Italia si parla di sport, quando si parla di sport si pensa all'atleta, all'agonista, e non si pensa, si pensa poco invece all'autonomia fisica, al fatto, ora, senza le esagerazioni, perché a volte non si gioca più a tennis ma si lavora sul rovescio, però l'esperienza dell'agonista di punta può servire anche a allenare la persona comune e a rialzarla dal divano. Nello sport è esattamente, passatemi il brutto paragone, come nell'industria automobilistica. Le Formula 1 teoricamente si costruiscono per fare in modo poi che le conoscenze tecnologiche ricavate da formare questi razzi che arrivano anche a 300 km orari possano essere trasferiti sulle utilitarie comuni che utilizziamo tutti i giorni, affinché siano più sicure, più economiche, più ecologiche e possano essere guidate con estrema facilità e intelligenza. La stessa cosa e traslando con attenzione e intelligenza, affidandosi a persone preparate, possibilmente nell'ambito della preparazione fisico-motoria, a laureati in scienze motorie, e per le persone comuni. Si dimentica che in Italia, secondo dati Istat, sono circa 20 milioni le persone che in qualche modo si muovono. Ecco, io credo che oramai è diventato persino noioso dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana per mantenere uno stile di vita sano e attivo. Non si parla di medaglie, di podi, di traguardi, si parla di qualità della vita. Riuscire a muoversi 5 volte alla settimana, 30 minuti, in forma sostanzialmente aerobica, cioè da non mettere in crisi il proprio respiro fino a non farcela più, ma un sano fiatone mentre si cammina o si corre piano e si parla con la persona che ci sta a fianco, è un'ottima raccomandazione per poter avere un'efficienza fisica che ci garantisce di vivere bene la vita di tutti i giorni, di evitare di cadere, di tenere il nostro apparato locomotore, ossa, tendini e grandi organi attivi, perché in periodi come questi poi vengono fuori proprio tutti i danni dell'immobilità. Da un lato la tecnologia ci aiuta a vivere meglio, dall'altro cerchiamo di non diventare proprio delle talpe da laboratorio, delle talpe, certo. da divano. degli atleti da divano. Grazie ad Antonio Latorre, ricordo CT della Federatletica, professore alla Università degli Studi di Milano. Una piccola pausa per la viabilità, tra poco. Si può fare. Può fare. Flashdance, Footloose, Grease, Febbre del sabato sera. Io le ho ripassate recentemente tutte in casa con la mia piccola, che è molto appassionata e ha voluto rivedere tutti questi video. Jill Cooper, non so quanto abbiano contato nella sua vita questi film, conduttrice TV, personal trainer, buongiorno. Anche la mia. Cioè, proprio quello che mi ha ispirato di diventare chi sono. Noi possiamo passare per Fame, possiamo fare per Rocky, per Flashdance, proprio la colonna sonora, perché ti mette proprio grinta, o sbaglio? No, infatti ci sono musiche che ti mettono proprio la voglia di saltellare, anche se magari non conosci il film, no? Però è la musica stessa che ti trascina. No? Adesso mi portano l'embolo del movimento, che è tutto positivo. Quando abbiamo l'embolo del movimento è tutto solo che si gira in positivo. È quello che tu utilizzi in televisione, cercare di provocare questo embolo del movimento. Beh sì, io sono un po' di, non lo so, io mi rido, dico, sono come quello famoso batteria, il coniglio, no? Che salta, perché vorrei motivare la gente di muoversi. Perché è salutare, perché è vitale, non per essere magri, ma per essere vivi. Non so, Marco, non so, tu sei di quelli che vengono punzecchiati oppure sei un uomo da app? Temo che tu sia un uomo da app. No, io sono un uomo da app, io sono un uomo e quindi voglio mantenere il controllo, quindi ho necessità di mettere... Ecco, questo però è una cosa che frega, perché l'app è un qualcosa che ti fai te. Quindi puoi cadere nella trappola, invece la persona che ti provoca e con la quale, diciamo, non ci sono i tastini virtuali per dire rallenta oppure prendo la pausa. Ecco, quello ho idea che possa essere utile, è così? Non posso dirti ferma, stop, non ce la faccio, devo seguirti. È come allora, io posso aggiungere una piccola cosa. Anche noi allenatori, Anni, abbiamo bisogno di un allenatore. È chiaro questo, perché ogni essere umano, qualsiasi livello, anche livello agonistico olimpionico, ha una soglia di non solo di dolore ma di sopportazione. Allora, ecco perché anche cioè, i più grandi campioni hanno allenatori, perché l'allenatore ti costringe, ti fai quei ultimi 5 ripetizioni, quell'ultimo sforzo, dare quell'ultimo angolo di movimento. Gil, tu quale detesti? Cos'è che ti costringono a fare? Oh cavolo, io non faccio proprio testo, perché siccome sono un po' come un diesel, io non sono scattista, sono più mezzofondista o maratona. Allora, più mi stanchi, per esempio la mia gara preferita è 10 km in salita. No, tutti, ognuno ha i suoi gusti. Ti rispetto tantissimo, sappilo. Per me, mio marito dice che mi devi sparare per fermare, per esempio un giorno mio tipico è un'ora di corsa, poi faccio yoga, poi vado in bici per 18 chilometri, poi vado a surfare, perché mi piace il movimento, mi rendo conto che sono un po' fuori dal normale, però scusate, ma mi piace tantissimo lo sport. Immagino questi pranzi in casa con tuo marito che ti segue in bicicletta, ma pranzate su una tavola oppure avete, diciamo, vi lanciate i panini e li prendete al volo? È una cosa, la Milano-Sanremo, stai ferma. Mio marito è un amante del mare, allora lui sta sempre in mezzo alle onde o con il vento, perché è surfista, o un surfista, allora non lo vedo mai. Io sono in bicicletta, lui non viene con me in bicicletta, così poi ci ricongiungiamo alla mensa familiare alla fine della serata e mangiamo come due scaricatori di porto, diciamolo così. Fate quei misceloni da Rocky, quelli con tutte le uova, tutte quelle cose lì? Li faccio cuocere le uova prima di mandarli giù, perché non potrei, l'uovo crudo non ce la fa, micidiale, mi ricordo ai tempi appunto del film, tutti un po' così gasati dall'idea di quest'uovo, ma onestamente lo trovavo orripilante io. È anche tossico l'albume dell'uovo crudo, ricordiamolo, non va mangiato. Ecco, ora in questo periodo qui, che appunto uno si ingegna di costruirsi in qualche modo una piccola palestra in casa e tenta di usare oggetti anche pericolosi e malsicuri, ci sono dei modi per fare appunto attività in casa anche in maniera semplice, movimenti che noi non pensiamo mai essere igienici e che invece possono essere allenanti? Penso alle pulizie, penso a cose del genere. Guarda, Allora, le prime cose è che proviamo di non inventare cose che sono pesanti, che possono essere sollevate sopra la testa, che potrebbero poi sganciarsi e caderci in testa o caderci su un piede, cioè proviamo a usare un po' di logica. Poi l'altra cosa è che con il corpo stesso, il corpo libero, che hanno usato da anni 30 in poi, cioè da sempre, magari anche i greci lo utilizzavano, tu puoi fare già tanto. Io, se posso menzionare, c'è un famosissimo sito con video su video su video in modo gratuito, dove sono milioni di video a corpo libero. Il mio consiglio è di seguire i professionisti, non fare un allenamento fai da te, perché il rischio è di strapparti o non riscaldarti a sufficienza, o magari fare un movimento con una postura sbagliata. Però alla fine, volendo, si possiamo utilizzare solo il corpo fisico, cioè il nostro stesso corpo come attrezzo ginnico, e avremo tanto risultato. Sicuramente. Senti, a proposito di rischi, in questo periodo in cui tutti mettono giù le app, tu invece delle app apri un negozio reale. È un bel rischio, voglio dire, che scelta. È un progetto pre tutto questo casino mondiale, e devo dire, però lo porto avanti perché io sono virtuale, ho e-commerce, ho una palestra online, e anche il mio negozio, le persone saranno in grado di contattarmi virtualmente attraverso una videotelefonata, ti posso spiegare. Ci tengo di mettere le radici sul pavimento concreto, perché penso che se tu devi domandare una persona virtualmente una domanda, è bello sapere che in secondo battuto tu puoi andare a bussare alla porta e dice: ma che cosa mi hai detto? Cioè, per me è una cosa che ho fatto, ho aperto questo negozio per rendermi ancora più concreta, e anche più concreta per chi ascolta i miei consigli. Marco, questa è una donna coraggiosa, io non lo so. Pensa a questi che possono chiedere direttamente a lei un consiglio. Io non so, non tutti si esporrebbero di persona. No, io assolutamente non lo farei. Tra l'altro è proprio è una visione, diciamo così, la cosa che apprezzo è che è una visione entusiasta. Cioè è in un mondo di professionisti, trovare l'entusiasmo è sempre una cosa meravigliosa. Ma tu hai sempre avuto questo approccio estremamente entusiasta al lavoro fisico? È sempre stata una tua passione? Allora, la mia passione, cioè io dalla mia passione ho fatto il mio mestiere, perché quando tu ti svegli la mattina e fai ciò che ami, non stai lavorando più. E la mia è veramente trovare soluzioni per rallentare il processo di invecchiamento biologico. Ok? E questo include tantissime cose, non è soltanto lo sport. Sono partita con lo sport perché sono una sportiva, però poi se mi sono evoluto in anche altre cose che aiutano a potenziare il metabolismo, o aiutano a rallentare l'apparire delle rughe o sparire delle rughe. E ci sono anche un sacco di scamotage che una persona può adattare giornalmente, anche una cosa stupidissima. Prendiamo, vai in supermercato, compri i frutti di bosco surgelati, li trovi, no? Ci sono mirtilli, ci sono le fragole, ci sono le cose che sono ricche di antiossidanti, e essendo surgelati hanno anche un processo di gradimento minore, perché sono state surgelate, certo, al momento della raccolta. Fatevi uno frullato ogni giorno. Devo assolutamente chiudere per oggi il Cooper. Scusami tu. Allora, devo assolutamente chiudere. Grazie a Jill Cooper, che ritroverete online nel suo negozio fisico. Grazie a te, Marco Malvaldi, ci ritroviamo domenica prossima. In redazione Edoardo Lavezzari e Michele Michelazzo, autore, Claudia Schiattone oggi in assistenza, Carmelo Lauricella in regia, insieme Marco. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.